E a volte accade, bro. Ti mi ritrovo qui e so che sei qui. So che ci sei, che mi stai ascoltando. So che sei qui, che cammini al mio fianco. Fa sì che io sia il tuo braccio, perché sia buona e giusta ogni cosa che faccio. Dammi la rotta, il buio è fitto e vago, la forza di rialzarmi in piedi quando cado. Stammi vicino, a volte vivere un trip mi sta con gli occhi dell'odio di cui sono schiavo. Dammi una chance, un tuo semplice gesto, quella pace che non so, le risposte che cerco. Vivo la realtà, nei miei viaggi immerso. Dio, fammi da via, tu sia la strada che ho scelto. C'è chi mi parla di perdono e fratellanza, ma son costretto a non credere a niente. Randaz, placa il mio istinto, da solo non potrei mai. Ti prego salvami da me stesso. Signore, dà alla mia gente salute e un po' di cash perché non piova per sempre. Che la mia anima sia pura mai finta. Proteggi ciò che a me è più caro, gli amici, la mia famiglia. Che questa vita sia vissuta fino in fondo, dal primo fino all'ultimo giorno. Dio, sei davvero tu, possa la tua parola scolpire, cambiare il mondo. Sei davvero tu che hai creato tutto questo. Sei tu che dai un senso a ciò che vedo e che penso. Tu dammi un segno adesso. Quante volte mi son chiesto se sei tu. Sei tu la luce di ogni mattino. Sei tu. Sei tu per ogni giorno che vivo. Sei tu. Sei tu per ogni volta che sbando, ogni sbaglio che faccio. So che ogni mio passo sei tu. E se non sei, chi sei quando prego? O sei l'eco della mia voce che torna indietro? E il dubbio che divora il cervello, il fuoco che ha dannato il povero Prometeo. Una mela per Eva, vicolo cieco, dove quella sera si è imbattuta Amleto. E mentre la candela cola sul pavimento mi chiedo, rifletterò, ammettere che forse non c'è rimedio. Continuo a leggere, leggo, vedo lettere nel lettere. Le annetto al mio sistema ma non risolvo il mistero. Essere o non essere, non so tu Dio. Ma io c'ero e metro dopo metro avanzi in un territorio conteso da fronti divisi dallo stesso credo. Cosa credere? Quante cose da chiedere, ma ogni volta il tuo silenzio ricorda che sono io che devo scegliere. Tra bene e male mi palleggio, luce e tenebre, lo sai anche tu stare qua giù. Non è uno scherzo, forse sono solo pazzo, mi sono perso. Ma padre mio, dove sei adesso? Adesso che ho più bisogno di te. Adesso che dentro me pace non c'è. Adesso che la tua voce non la sento più. Che mi chiedo, sei davvero tu? Sei davvero tu che hai creato tutto questo? Sei tu che dai un senso a ciò che vedo e che penso. Tu dammi un segno adesso. Quante volte mi son chiesto se sei tu. Sei tu la luce di ogni mattino. Sei tu. Sei tu per ogni giorno che vivo. Sei tu. Sei tu per ogni volta che sbando, ogni sbaglio che faccio. So che ogni mio passo sei tu. Vorrei sapere davvero cosa si nasconde alle spalle di quel cielo, oltre le colline alla fine del sentiero. Dio, sei davvero tu.